essere venuti e soprattutto rimasti, perché abbiamo avuto questo problema abbastanza improvviso di un attacco di appendicite della onorevole Mosca, che è ricoverata da ieri sera all'ospedale di Lecco, e non abbiamo avuto né il tempo materiale di dire, diciamo, la cosa. E poi soprattutto volevamo approfittare, visto che comunque la sala l'avevamo presa, c'erano delle persone, degli interventi interessati e significativi, a questo punto la sfruttiamo in una maniera per fare un po' un punto tra di noi. Sono mesi e anche, diciamo, momenti in cui il dibattito è caldo su questi temi con cui volevamo parlare con l'onorevole Mosca, quindi secondo me vale la pena comunque. Avrei comunque tenuto sempre il discorso. Intanto vabbè, vi presento il volume che si chiama Senza una donna. Il libro nasce da un'esperienza che Flavia Perina, giornalista e ex direttrice del Secolo d'Italia, parlamentare del PDL e poi, diciamo, fuoriuscita nel gruppo di Futuro e Libertà, e Alessia Mosca invece parlamentare del Partito Democratico, dicevo, questa esperienza di costruzione del libro risale all'epoca precedente l'incontro, diciamo, delle donne del Se non ora quando. Quindi è un libro messo in cantiere nel 2010 e parte dall'esperienza di un'iniziativa di Alessia Mosca che si chiama Donne al Volante. Qualcuno di voi magari conosce questo sito. Comunque è un progetto che si è articolato nell'ascolto come una specie di roadmap in Italia. C'è stato un tour e durante questo tour sono state raccolte chiaramente le istanze, le necessità, e ha partorito qualcosa come 5 proposte di legge che c'entrano molto con gli argomenti che ci stanno a cuore, che sono diventati poi nei mesi crescendo il tema dello SNOC e sono entrati un po' nell'agenda di tutti i movimenti italiani. Quando siamo andati a Siena abbiamo contato qualcosa come più di 250 realtà associative, aggregative e di movimenti che si occupano del femminile, sicuro, diciamo, sotto un profilo anche politico in senso lato. Non sono le associazioni solo di, non so, dei consultori o queste cose, sono movimenti interessati al discorso sul femminile. Allora, io vi leggo i titoletti di queste, secondo me, interessanti proposte di legge. Poi abbiamo la fortuna di avere l'onorevole Braga, che oltre che essere compagna di partito dell'onorevole Mosca, è coetanea più o meno dell'onorevole Mosca e fa parte delle donne giovani, quindi, che sono quelle che stanno portando avanti le iniziative legislative su questi temi. Allora, le proposte del gruppo Donne al Volante sono la proposta di legge per la parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate. È una proposta che si è realmente concretizzata nella legge che è stata passata in via definitiva il 28 giugno per l'introduzione delle quote di genere nei consigli di amministrazione delle società quotate nei mercati regolamentati, cioè nelle società quotate in borsa, e anche nelle società a partecipazione pubblica, quindi ad esempio la RAI. Una legge importante che impone la presenza di una percentuale che andrà, quando la legge andrà a regime, del 30% del genere meno rappresentato, in questo caso delle donne, che sono la minoranza, anzi sono quote esigue nei consigli di amministrazione. Una legge praticamente che ha visto una grande trasversalità e un grande lavoro, penso che lo possa confermare l'onorevole Braga, della lobby delle donne del Parlamento. Sulla legge ci sono state molte resistenze invece da parte di questi cosiddetti poteri forti. Per esempio, durante il lavoro finale della commissione guidato da Maria Ida Germontani, addirittura si era palesata una lettera, credo, se mi corregge l'onorevole, delle associazioni di assicuratori e delle banche, che tendeva a forzare il dettato della legge. Poi c'è stata una specie di piccola insurrezione, resistenza, per cui poi alla fine, diciamo, sono state respinte queste resistenze e la legge, pur al Senato modificata nei tempi dell'applicazione, ma sostanzialmente mantenuta, ha deciso che quindi dal 2012, con una sorta di progressività, dovrà essere presente almeno il 25%, credo, di presenze nei consigli di amministrazione del genere meno rappresentato, mentre dal 2015 si andrà a regime col 30%. Naturalmente sono previste per realizzare realmente l'applicazione dei meccanismi sanzionatori, che vanno da multe consistentissime, perché nelle società quotate, alle società che non provvedono ad inserire queste quote, verranno combinate multe da 100.000 euro a 1.000.000 di euro, capite cosa può significare, fino alla decadenza. Quando le società saranno riottose si arriverà addirittura alla decadenza e quindi alla non efficienza dei consigli di amministrazione. Questa legge ha visto la realizzazione nell'arco, diciamo, di un anno e mezzo di lavori parlamentari, quindi è stato un iter legislativo relativamente veloce. I pareri di costituzionalità e anche della Commissione Finanze sono stati esperiti in tempi piuttosto veloci e brevi, quindi, diciamo, anche il meccanismo della produzione legislativa in un caso di una legge così si è dimostrato efficace, contraddicendo quello che di solito vediamo, che è un iter abbastanza farraginoso, difficoltoso, rallentato. Quindi, quando c'è la volontà concreta di fare un dispositivo legislativo perché lo viene richiesto e c'è un grande consenso, poi alla fine si riesce, si forzano un po' anche le abitudini, diciamo. La seconda proposta di legge del progetto è, per esempio, quella volta a introdurre delle detrazioni in favore delle madri lavoratrici e detrazioni per spese di assistenza e cura dei figli minori e di assistenza alle persone non autosufficienti. Capite com'è importante per le famiglie che si occupano quotidianamente di questi problemi, che sono sole e lasciate sole a occuparsi dell'aumento delle rete degli asili, delle residenze socioassistenziali per gli anziani, devono continuamente sborsare e non hanno mai ristorni o riconoscimenti. Quindi, diciamo, di fronte anche a un welfare che viene meno, è fondamentale poter pensare a delle detrazioni. La terza proposta riguarda l'introduzione dei congedi di paternità, in questo caso con una certa formula, che è quella pensata e immaginata dall'onorevole Mosca. Poi nel dibattito ci sono state tante proposte di varianti, diciamo, da un punto di vista tecnico di questi congedi di paternità. Ce ne sono alcuni molto migliorativi, ce ne sono alcuni, diciamo, che sono di regime minimo. Comunque è la prima volta che fondamentalmente in Italia si sdogana il principio che siano anche i padri che devono farsi carico del problema della, tra virgolette, maternità, perché è chiaro che la figura a cui è stato demandato per cultura nel nostro paese la cura del bambino è sempre stata solo la donna. La penultima proposta è l'introduzione di un credito di imposta per le microimprese che assumono genitori con figli a carico sotto gli 8 anni e che siano disoccupati, quindi la creazione di incentivi statali o comunque anche, appunto, nella forma di una defiscalizzazione per migliorare, diciamo, le situazioni gravi, perché quando uno non lavora da 3 anni, voi capite. Poi, nel caso delle lavoratrici, e sono moltissime ormai le donne che devono lavorare in regime di partita IVA, perché nelle anomalie contrattuali spesso vengono richieste o vengono consentite posizioni di lavoro sotto questa specie di copertura. Quindi queste persone vengono interessate dalla vicenda degli studi di settore. Quindi lo studio di settore, che una volta poteva capitare solo all'avvocatessa, sta purtroppo andando anche a capitare su donne che magari non hanno la stessa capacità economica di un vero, diciamo, libero professionista. E quindi la proposta è quella di mantenere gli studi di settore fermi per i primi 2 anni di maternità, in cui inevitabilmente, allo stato attuale delle cose, il reddito delle donne con partita IVA cala. Ecco, io penso che da questo quadro esce fuori un po' quello che sono i contenuti e i temi del libro. Secondo me sono molto validi, soprattutto i capitoli relativi alle quote, perché consentono di fare un discorso generale sulle resistenze che a questo discorso delle quote sono state portate sempre avanti nel nostro paese. Sono chiaramente, non sono resistenze portate avanti solamente dagli uomini, ma queste obiezioni sono sposate. Io ho parlato oggi con due signore e subito queste signore si sono sentite agitate, rivoltate da questo concetto della quota, perché la donna tende per sua natura, probabilmente abitudine culturale, diciamo, al concetto dell'equità. E quindi nella donna scatta immediatamente per questo problema dell'equità una sorta di controgaranzia, no? Per cui l'idea di essere messa in una quota non è un'idea che primo non piace. Però il problema delle quote invece, e trovate nel giornale alcuni spunti che ho trovato perché mi sembrano significativi. Negli spunti che vi ho dato si parla prevalentemente delle quote in politica. Avendo dei politici, ho pensato di mettere prevalentemente dentro queste note in modo da anche sollecitare un po' il loro intervento su questi temi. Mi sembra che il tema delle quote diciamo, riceve delle obiezioni, come dico, che mi sembrano importanti. E sono questi. Gli argomenti che sono sempre stati sollevati contro l'uso delle quote sono che le quote sarebbero anticostituzionali, prima di tutto. Questo tipo di posizione è stato contraddetto fondamentalmente da moltissimi studi giuridici negli ultimi anni e dalle posizioni assunte anche dall'Unione Europea. Cioè le raccomandazioni dell'Unione Europea vengono stilate in una maniera talmente approfondita che è chiaro che se l'Unione Europea raccomanda l'impiego delle quote, lo fa a ragion veduta sulla base di consapevolezze, di precedenti giuridici realizzati in altri paesi e quindi gli raccomanda a tutti i paesi dell'Unione Europea che ancora non le hanno, ma su delle esperienze concrete che si basano, per esempio sulle esperienze che sono state fatte su questo tema, prima di tutto in Norvegia, in Spagna, in Francia e recentemente il dibattito anche in Germania si è approfondito. Il tema dell'incostituzionalità è già abbastanza saltato. Sono più forti invece i controargomenti sulla base di resistenze culturali. Le quote non sono democratiche perché fondamentalmente, per esempio, sono gli elettori che devono decidere chi sarà eletto. È evidente che allo stato attuale, in cui le liste elettorali sono bloccate dall'esistenza di un dispositivo legislativo che per esempio regolamenta le elezioni alla Camera e al Senato come il cosiddetto Porcellum, che recentemente, diciamo, è in discussione sul tema referendario, perché noi sappiamo che è passato un referendum che adesso è all'analisi della Cassazione per giudicarne l'ammissibilità, però il quorum delle firme è stato raggiunto. Quindi la Cassazione tra dicembre e gennaio si pronuncerà per l'ammissibilità e si potrà andare a fare questo momento referendario in maniera che l'elettore possa riprendere eventualmente in mano il tema della dell'eleggibilità, perché attualmente sono le segreterie dei partiti che compilano le liste. Voi capite come in un sistema elettorale così bloccato il tema di introdurre le donne è a discrezione delle segreterie politiche. Quindi le segreterie politiche sono fatte prevalentemente da uomini, o comunque non hanno l'abitudine a ragionare in termini di pari opportunità, no? Per cui è chiaro che recuperare una legge elettorale che possa liberare l'istanza dell'elettorato e recuperare anche la, significa recuperare anche per le donne dei margini. Nel momento in cui la rappresentanza politica delle donne in Italia è qualcosa di è bassissima, dentro agli appunti che vi ho dato ci sono dati che purtroppo non sono recentissimi perché si fermano al 2005, però sono comunque indicativi, perché sappiamo che dal 2005 al 2011 non è che in Italia le cose siano migliorate di tanto. Negli ultimi mesi ci sono casi dopo le elezioni di regioni o di dove ci sono state delle migliorie, però sostanzialmente la realtà geografica culturale del nostro paese non è molto modificata dal 2005. Un'altra obiezione è quella che il sesso praticamente interviene al posto delle competenze e così alcuni candidati tra i più competenti verrebbero scartati. Allora qui bisogna raccontare in termini di produzione meritocratica questo processo. Chiaramente diciamo l'argomento del merito è un argomento fortissimo. Si direbbe che le quote non sono fondamentalmente favorevoli appunto all'affermarsi del merito, ma nella realtà noi possiamo partire da un dato di fatto, cioè oggi la donna viene molto valutata per i suoi meriti, l'uomo non viene mai valutato per i suoi meriti, cioè non ci sono al momento attuale, sia nello stile della cooptazione della politica, sia nell'avanzamento delle carriere nel mondo economico, vere griglie di trasparenza della valutazione. Noi sappiamo come l'invadenza della politica a vari livelli abbia collegato l'avanzamento in carriera a un certo lobbismo piuttosto che all'essere agganciati fortemente a centri di potere, quindi è chiaro che l'argomento del merito allo stato attuale è piuttosto debole. Invece nel momento in cui venissero scelti dei curricula eccellenti, come si propone per esempio di fare, noi abbiamo avuto anche l'incontro con la realtà della Fondazione Belisario, nel momento in cui veniva passata questa legge sulle quote, un'intervista alla senatrice Lella Golfo ci ha raccontato come nella fondazione lo stessero raccogliendo 1000 curricula eccellenti di donne. È chiaro che la raccolta di curricula da parte delle varie istanze politiche può assolvere anche alla necessità di portare i propri personaggi all'interno dei contesti, quindi può anche lì prestarsi a un gioco un po' ambiguo, però è fondamentale, questi curricula vengono valutati e sono stati fatti valutare da diciamo, organismi indipendenti di valutazione che applicano criteri trasparenti e sono anche organismi riconosciuti, quindi diciamo non erano curricula così che potevano essere messi in discussione. Le donne preparate ci sono e si trovano, quindi l'obiezione anche che poi non ci sarebbero le donne da mettere in questi posti cade anche quella, perché anche quella è stata un'obiezione molto forte. È chiaro che il problema delle quote richiama un problema di leadership, quindi io vi inviterei, se volete poi magari anche a parlare un po' del tema della leadership femminile, perché le caratteristiche della leadership femminile non sono sicuramente quelle della leadership maschile. Le donne sono restie a impossessarsi, a vestire i panni del leader quando le caratteristiche richieste per questa leadership sono quelle maschili. Noi viviamo il concetto di leadership in una forma sicuramente molto riduttiva, Io trovo che sia molto interessante diciamo, la proposta, per esempio, dell'onorevole Golfo sul tema della leadership. Lei fa proprio un derivare quasi dall'etimologia della parola il concetto di leadership e dice che leadership significa condurre avanti, cioè la capacità praticamente di produrre un avanzamento, un movimento verso il positivo. E quindi la leadership nel senso positivo e all'interno di una società democratica implica una visione d'insieme degli obiettivi e una grande fiducia e una capacità di progredire verso questi obiettivi. Quindi tutte caratteristiche che penso siate d'accordo, non si trovano negli uomini o nelle donne, ma si trovano nell'essere umano. E nelle donne comunque una capacità di sintesi, di fiducia, di disponibilità, di mettersi in gioco sicuramente, perché lo vediamo tutti i giorni. La nostra società è una società democratica e quindi il tema della leadership che coinvolge una parola forte, pesante, che è la parola potere, nel mondo democratico diciamo richiama il tema del consenso, perché il potere in una società democratica non si può gestire al di fuori dei temi del consenso e dell'accordo. Quindi il leader deve essere un leader riconosciuto, riconoscibile, in cui gli altri si rispecchiano. Quindi c'è un problema di gestione del consenso e di gestione del potere. Quindi riparlare di leadership al femminile vuol dire rimettere in discussione questi temi. Diciamo che queste caratteristiche della leadership maschile, che sono la propensione al comando, il decisionismo, una certa impositività nello stile, non piacciono alle donne, ed è per questo che le donne non vogliono questo tipo di leadership. Quindi gli stereotipi maschili tengono le donne lontane dai luoghi dove si prendono le decisioni e dai ruoli guida. Quali sarebbero invece le caratteristiche che noi possiamo già oggi individuare nella leadership femminile e che potrebbero essere giocate a pro di questa capacità di guida? Il senso di responsabilità, per esempio, che si riconosce sempre alle donne, una minor propensione alla ricerca del vantaggio personale, che anche questo direi che è una tendenza all'equità, una capacità empatica, la capacità di lavorare in squadra, una capacità negoziale, una flessibilità, la capacità di assumersi più ruoli, il cosiddetto multitasking che piace poco, perché alla fine lavoriamo quattro volte tanto, però. E anche una velocità di adattamento. Siccome ci siamo dovuti comunque sempre adattare, quando ci si propone una situazione di adattamento, a lei è il nostro territorio. E anche una capacità di inclusività, di includere le persone, di portare dentro, di comunque non lasciare fuori nessuno. Quindi anche sul piano sociale questa leadership può avere un plusvalore. Quindi in fondo quella che viene definita in termini così un po' teorici una leadership transazionale, una leadership della relazione che diciamo può consentire anche alla leadership degli uomini di portare a galla, di far emergere una modalità di leadership nuova, cioè l'introduzione di una donna leader in un gruppo di uomini può sicuramente portare avanti dei processi nuovi di cambiamento in questo senso. Questo tipo di leadership si replica anche, per esempio, che riguarda un numero molto limitato di donne nella società, perché quante possono essere le parlamentari, quante possono essere le donne nei consigli di amministrazione, poche donne sul totale della massa sociale delle donne. Però nella realtà questi modelli, affermandoli, producono inevitabilmente un istinto di imitazione, la mutuazione di modelli nuovi, per esempio nei ruoli subalterni che hanno a contatto con il leader, e quindi una sorta di effetto a cascata su tutti i ruoli sociali che vedono coinvolta la donna, e alla fine una maturazione sociale. progressiva. Non vi tedio più, vi dico solo una cosa che secondo me è fondamentale. Declinare il femminile nella leadership e quindi consentire l'ingresso nelle quote, consentire alle donne di entrare nei vari livelli, incarna quella che è una dimensione che si riconosce a tutte le donne, che è la propensione alla cura. Allora Alessia Mosca dice che c'è un modo di curare che è relativo al proprio privato, che è la cura della propria famiglia, dei propri figli. C'è una dimensione già più socializzata che è quella classica delle professioni come l'abbiamo conosciute nel Novecento, quindi il medico, l'insegnante, la donna coinvolta nel sociale che mette una parte delle proprie energie quotidiane in una dimensione sociale, ma comunque ancora quasi di oggetti identificabili, perché i propri studenti, i propri malati sono comunque delle persone fisicamente presenti e quindi una dimensione ancora quasi di, appunto, di riconoscimento personale. Ma poi c'è una dimensione delle donne che è quella della cura della collettività ed è il lavoro che fanno le politiche, che fanno le donne delle istituzioni, che può fare una magistrata, no? Donne che hanno cura per, diciamo, oggetti che sono un po' impersonali, però attingono alla propria energia, che è la stessa che mette la mamma nei confronti del bambino. Quindi questo tipo di leadership e di cura della collettività e dell'insieme collettivo è una sorta di enfasi, di enfatizzazione di una caratteristica che nella donna c'è. Io chiudo qua e vi do questi. L'onorevole Braga ci dice qualcosa, visto che le impende, ci parli un po' della situazione delle quote. Delle quote in politica. Vado a prendere sì, sì, per Braga. Ma intanto il titolo migliore non poteva essere scelto senza una donna, veramente. Quindi io cercherò in modo sicuramente meno efficace di lei, che ha scritto questo bel libro, che ha portato avanti anche delle iniziative importanti in Parlamento su questi temi, di raccontarvi qualcosa. Cioè, molti spunti li ha già dati prima da Paola raccontandoci i contenuti di questo libro. Io vi posso portare l'esperienza positiva di cui in qualche modo ci ha già parlato, cioè della felice conclusione dell'iter parlamentare di questa legge, felice ma anche molto sofferta e difficile, nel senso che, come si diceva prima, la legge che portava appunto prima firma di Alessia Mosca sull'introduzione del 30% nei consigli di amministrazione delle società quotate in borsa ha dovuto subire, diciamo, un percorso ad ostacoli abbastanza difficile. Ci sono state sollevazioni di forze sia rappresentate in Parlamento che nella società, nell'economia, criticando appunto l'opportunità di una norma di questo tipo. C'è stata sicuramente una lobby femminile che ha agito per seguire l'obiettivo di una emanazione poi di questa legge, ma c'è anche stata molto forte una lobby di genere maschile e anche di gruppi di interesse, a dimostrazione del fatto che, diciamo, nel nostro paese esiste comunque una tendenza a opporsi in maniera anche abbastanza violenta dei meccanismi e dei passaggi di rottura rispetto alla situazione attuale. Questa cosa è molto vera anche per quanto riguarda la rappresentanza delle donne in politica e nelle istituzioni. Prima si citavano le altre proposte di legge di cui come parlamentari del PD ci stiamo occupando in vari modi. È in discussione in queste settimane in Commissione Affari Costituzionali una proposta di legge a prima firma della nostra collega Sesamici e poi di altre parlamentari anche di altri schieramenti. Recentemente è stata presentata una anche da parte del ministro Carfagna, che hanno sostanzialmente lo stesso oggetto, e cioè vi cito il titolo, insomma, per capirci, disposizioni per promuovere l'equilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte delle regioni e degli enti locali. È una norma che ha a che fare con quello che, diciamo, volgarmente, tra virgolette, vengono definite le quote rosa. E in particolare questa norma prevede due questioni specifiche. La prima è quella dell'obbligo di rappresentanza nelle liste, cioè diciamo nel divieto di rappresentanza in quota massima oltre i 2/3 di ciascun genere, pena l'inammissibilità delle liste. E la seconda invece è la possibilità che misura che riprende il contenuto di una legge elettorale regionale della regione Campania, dell'introduzione della doppia preferenza di genere nell'esercizio appunto del voto amministrativo, la possibilità cioè di esprimere due preferenze, di cui la seconda deve riguardare un candidato, nel caso si esprima la seconda preferenza, un candidato di sesso femminile. In caso di mancato rispetto di questa disposizione si prevede l'annullamento della seconda preferenza. Capite che questa legge, che aveva l'ambizione, che ha tuttora l'ambizione pur nel contesto molto precario, diciamo, di questa legislatura, di vedere la luce in tempi utili per le prossime scadenze amministrative, potrebbe, diventa sempre più difficile effettivamente più si va avanti, ma potrebbe avere ha l'ambizione in qualche modo anche qui di introdurre un passaggio di rottura, riprendendo un'esperienza positiva che anche nel nostro paese era stata percorsa, dell'obbligo della rappresentanza, del divieto della rappresentanza oltre i 2/3 di un genere per le elezioni, mi sembra, quella del 2001, e poi affossata da una pronuncia della Corte Costituzionale. Quando si parla di quote, è vero, emergono molte delle questioni a cui si faceva riferimento prima, cioè molti elementi di critica, perché si contesta, così come era la sentenza appunto della Corte Costituzionale, di, in quel caso, vi leggo giusto per capire cosa prevedeva la motivazione della sentenza della Corte, diciamo prevedeva che il principio della rappresentanza di genere era già riconosciuto in qualche modo dall'articolo 3 della Costituzione, che garantisce l'assoluta eguaglianza tra i due sessi nella possibilità di accedere alle cariche pubbliche elettive, nel senso che l'appartenenza all'uno o all'altro sesso non può mai essere assunta come requisito di eleggibilità. Ne consegue che altrettanto deve affermarsi per quanto riguarda la candidabilità. Questa è la sentenza appunto della Corte Costituzionale del 95 che ha bloccato l'applicazione di quello strumento nel nostro ordinamento. Poi dopo questa sentenza del 95 si è posta, diciamo, la necessità di tornare alla carica, e si è arrivato alla revisione dell'articolo 51 della Costituzione nel 2001 con una modifica che poi ha trovato la forma, diciamo, finale nel 2003, che prevede appunto l'introduzione di un comma successivo secondo cui la legge appunto prevede all'articolo 51 della Costituzione appositi, la legge costituzionale integrata dalla disposizione prevedendo l'adozione di appositi provvedimenti per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini. Il tentativo di introdurre poi le quote, di insistere per una maggiore rappresentanza è stato portato avanti anche nelle successive legislature senza successo. Noi ci auguriamo che in questa formulazione, che va a incidere soprattutto sulla elezione dei consigli e degli organi elettivi degli enti locali, si possa in qualche modo raggiungere invece un risultato migliore. Quando abbiamo ragionato su questa proposta di legge abbiamo anche cercato di capire qual è il panorama europeo, qual è la situazione negli altri paesi e se lo strumento delle quote è davvero lo strumento necessario per raggiungere questo obiettivo. Allora, non vi chiedo se stasera nel raccontare raccontarvi cosa succede negli altri paesi, com'è la situazione negli altri paesi europei. Ci sono anche evidentemente realtà molto diverse che dipendono dai sistemi elettorali, dall'architettura istituzionale dei diversi paesi. Certo è che, ad esempio, in Francia, dove il tema dell'uguale accesso delle donne e degli uomini ai mandati elettorali e alle funzioni elettive, così come alle responsabilità professionali e sociali, è sancito all'articolo primo della Costituzione francese, ci sono state una serie di leggi di natura costituzionale e ordinaria che hanno sicuramente raggiunto degli obiettivi importanti, anche con delle forzature rilevanti riguardo ad esempio a una restrizione dei finanziamenti ai partiti politici che non rispettano queste norme nella composizione delle liste, con un effetto positivo, diciamo maggiormente positivo, nell'elezione degli organi amministrativi municipali e molto meno a livello di assemblee nazionali. Questo ha dimostrazione del fatto che più si cresce, diciamo, nella rilevanza, almeno da un punto di vista formale, degli organi di cui si parla, addirittura nelle ultime elezioni è stato dimostrato che i partiti hanno preferito, diciamo, subire queste restrizioni di trasferimenti piuttosto che ottemperare a questo principio della rappresentanza. La situazione della Svezia, ad esempio, che viene spesso citata come situazione virtuosa, che vede appunto la più alta percentuale di donne elette in Parlamento, la legge elettorale svedese non contiene nessuna disposizione che prevede quote di rappresentanza. I partiti politici normalmente adottano il principio dell'alternanza uomo e donna nelle formazioni delle liste per le varie consultazioni elettorali. Il caso della Svizzera, a noi qui vicina, è un caso interessante perché nel 1995 è stata presentata un'iniziativa popolare di modifica della Costituzione per affidare alla legge il compito di stabilire le quote in tutti gli organi federali, sia in Parlamento, compreso il Parlamento, e sia il Parlamento che il Governo hanno sottoposto questa iniziativa a referendum nel 2001. L'iniziativa popolare è stata respinta con l'81,8% dei voti. Quindi, diciamo, sicuramente l'Italia è un paese che, come si diceva prima, paga la scarsa rappresentanza anche negli organismi istituzionali, non è solo, e la strada in qualche modo da percorrere è una strada lunga ancora e difficile, io credo, oltre gli ostacoli, ma è quello che ci chiede in qualche modo l'Europa. L'Europa nelle ultime sue, come dire, nelle ultime sue pronunciamenti, la nuova strategia europea del 2010-2015 per la promozione della parità tra uomini e donne, costituisce appunto, vede nel tema della promozione della parità fra uomini e donne uno dei 5 priorità della nuova strategia europea 2010-2015. E la Commissione si è data tutto un programma e anche una modalità di azione e di intervento a partire ad esempio dalla costruzione di un database, cioè di un sistema rilevamento anche delle persone, delle donne che occupano posti di responsabilità nell'Unione Europea come strumento di valorizzazione delle competenze e del merito che possono essere messi in gioco. Il tema della rappresentanza femminile nelle istituzioni, io diciamo, sono uscendo un po' dal quadro più di carattere legislativo e normativo. Mi permetto anche io qualche considerazione anche di carattere, insomma, personale. Sicuramente è vero quello che diceva prima Ida Paola, nel senso che le donne soffrono questo ricorso alle quote come una forzatura, a un'imposizione inutile che non rende conto del criterio di valutazione con cui si vorrebbe essere riconosciute all'assunzione di ruoli importanti, di leadership e di anche rappresentanza istituzionale. Credo però che se le quote vengono viste come un passaggio e come uno strumento per rompere alcuni meccanismi, alcune resistenze che ci sono nel nostro paese, possono essere uno strumento efficace, lo hanno dimostrato alcuni esempi. Accanto alle quote, laddove si riuscisse in qualche modo a realizzarle, serve comunque un lavoro di carattere culturale grandissimo, che riguarda sicuramente la rappresentanza femminile, ma più in generale la costruzione della classe dirigente, insomma, del paese. Il tema della valorizzazione delle competenze, del merito, della eliminazione o comunque la, diciamo, il superamento di meccanismi di cooptazione, che sono quelli con cui molte volte si arriva alla costituzione delle classi dirigenti del nostro paese, riguardano le donne, ma riguardano credo complessivamente la nostra società, e quindi c'è un tema sicuramente di carattere generale che per le donne assume una caratteristica particolare, perché la possibilità concreta poi di assunzione di ruoli anche di responsabilità e di rappresentanza anche all'interno delle istituzioni passa per una difficoltà oggettiva che hanno molte donne nel conciliare i tempi della vita pubblica e della vita privata. Questo è l'altro fronte di impegno su cui diciamo, la forza politica a cui appartengo, il Partito Democratico, nelle istituzioni sta svolgendo un'azione. Tutte le proposte di legge a cui faceva riferimento prima da Paola sono proposte di legge che vedono come prime firmatarie deputate e senatrici del PD, il tema della conciliazione, il tema dell'introduzione del congedo obbligatorio anche per la paternità, la possibilità di favorire e di implementare l'occupazione femminile, di ridurre la disoccupazione femminile, l'obiettivo di raggiungere traguardi di conciliazione tra i tempi della vita lavorativa, della vita familiare, la suddivisione del carico di lavoro di cura all'interno delle famiglie e nei rapporti con i servizi presenti sul territorio e nella società, sono tutte le precondizioni necessarie, non sufficienti ma assolutamente necessarie per consentire una maggiore presenza delle donne all'interno delle istituzioni. Io concordo molto con su questo punto, diciamo, c'è un'iniziativa sia di carattere parlamentare ma anche un'iniziativa nel paese, nella società, tra le donne, di cui credo c'è assolutamente bisogno, perché le prime appunto a riconoscere l'importanza di questi strumenti sono le donne che quotidianamente si trovano a dover conciliare tempi diversi, le funzioni, i ruoli, e molte volte a dover rinunciare anche delle opportunità per poter tenere insieme tutto. Questo, il tema della democrazia paritaria che sta sotto, diciamo, che sottende un po' tutti questi argomenti, tutti questi temi, per usare anche alcune espressioni che non sono mie ma che mutuo da testi usciti recentemente, è un po' la frontiera della nuova libertà femminile. Cioè, una volta acquisiti, e anche se non sappiamo una volta per sempre, dei diritti che sono stati l'oggetto delle battaglie dei movimenti femminili anche nel nostro paese, oggi la questione della rappresentanza e della democrazia paritaria costituisce una nuova frontiera dell'emancipazione e della piena realizzazione femminile, rispetto alla quale appunto ci sono sicuramente molte resistenze, una delle quali, e io di questo sono fermamente convinta, è che anche se ci sono dei segnali positivi, che si citava prima l'esperienza del movimento Se non ora quando, il 13 febbraio, oggi più che un tempo, più che in altri momenti della storia di questo nostro paese, la ricerca di queste nuove libertà sono ricerche individuali, in cui è sempre più difficile costruire percorsi comuni e condivisi, in cui ciascuna donna cerca per sé di far combaciare tutte queste cose, di trovare le condizioni per realizzare queste opportunità e queste necessità, ma fatica ad entrare in un percorso comune di condivisione. Invece la questione della, diciamo, l'assunzione di responsabilità anche collettive credo che sia un tratto fondamentale per tentare di superare alcune resistenze molto forti e raggiungere degli obiettivi ambiziosi di cui però il Paese ha assolutamente bisogno, perché lo accennavi prima tu nell'introduzione, il nostro Paese sconta una scarsissima rappresentanza delle donne nelle istituzioni, ma anche un livello di occupazione femminile molto basso, e questi sono elementi che frenano le possibilità anche di crescita e di competitività del nostro Paese. Lo ha ricordato, diciamo, ormai sono moltissimi gli studi e le ricerche che dimostrano questa cosa, e sta nell'interesse chiaramente non solo delle donne, ma io credo di tutta la società italiana, fare in modo che le donne siano sempre più rappresentate come una parte essenziale e determinante di questa società, così come altre, passatemi il termine, categorie sociali, siano sempre più rappresentati nei luoghi decisionali e nei luoghi del potere, dove, chiudo su questa cosa, con il termine potere non si fa riferimento all'esercizio di un potere autoritario discrezionale, ma a un'assunzione di responsabilità nella costruzione appunto di politiche e complessivamente di proposte di crescita e di sviluppo per la nostra società. Ho cercato di dirvi appunto alcuni dei temi su cui anche il Parlamento sta lavorando con molte fatiche, con qualche successo, ma moltissime fatiche, moltissime battute d'arresto. Chiuderei qui e poi magari se c'è qualcosa di specifico su cui vi interessa sapere qualcosa di più concreto, sono a vostra disposizione. C'è qualche intervento? Io ho una perplessità su un punto, quello che si chiede, no? Con la legge che avevi citato, che il periodo di cura una donna sia, nel periodo di cura di una donna ci siano più detrazioni fiscali per il riconoscimento del lavoro di cura che si fa in un determinato periodo, no? Sì, tu parlavi delle proposte dell'onorevole Mosca. Invece mi ricordo che Marina Piazza, che è stata la presidente della Commissione Qualità Nazionale, lei aveva fatto le proposte, mi sembrava migliore, lei diceva che lei ha fatto la proposta proprio in concomitanza con la proposta di aumentare l'età pensionabile delle donne, cioè che andrebbero riconosciuti invece come contributi ai fini pensionistici quegli anni lì, perché è un lavoro. Certo. Allora lo riconosci come lavoro. Diciamo il tema anche del salario familiare, no? Quello che si diceva. No, è un lavoro, sono anni di lavoro che fai insieme anche a un altro lavoro. Però il riconoscimento come contributi. Una supervalutazione dei contributi. Dei contributi, puoi andare in pensione invece che a 65 anni, che è una roba dell'altro mondo. Cioè, in fondo, il riconoscimento del valore sociale, sì, della maternità. Sì, no? Lei l'aveva fatta questa proposta, mi sembrava migliore, insomma, mi sembrava, sì, che fosse, diciamo, un riconoscimento migliore. Sono quelle su cui ha lavorato lei. Sì, un riconoscimento migliore, ecco. Più democratico, più, certo, come posso dire. Sì, sì. Se non ci sono interventi. No, volevo citare anche alcuni dati di fatto che riguardano appunto sia la questione delle quote sia la questione più generale. Intanto, così per onore di verità storica, questa legge è frutto di una doppia iniziativa, una dell'onorevole Lella Golfo e una dell'onorevole Mosca, le quali, anzi, addirittura l'onorevole Golfo ha presentato per primo questo progetto, dopodiché c'è stato quello della Mosca e alla fine i due progetti sono stati unificati. La cosa importante da ricordare, non per dare una primogenitura a qualcuno, ma perché questa legge è frutto di un incontro fra posizioni politiche diverse, in cui le donne hanno giocato un ruolo decisivo in quanto rappresentanti, in quanto donne, e la destra e la sinistra, diciamo, parlamentari, hanno trovato un'intesa su un progetto, su dei meccanismi. E quindi è una cosa molto importante, diciamo. Vuol dire che nel Parlamento c'è una possibilità di lavoro, se si adoperano naturalmente dei criteri diversi. L'altra cosa che voglio ricordarvi è che le donne attualmente nei consigli di amministrazione delle società sono in Italia il 6%, ed è il paese che ha la rappresentanza femminile nell'economia, diciamo così, è la più bassa. 6%, quindi questa legge, quando, se verrà, perché poi anche qui ci sono dei pericoli, questa legge per essere attuata dovrà avere un regolamento di attuazione. Non mi risulta che fino a questo momento sia stato, il regolamento di attuazione sia stato approvato, quindi voi sapete che una legge può essere fatta marcire anche se mancano questi strumenti. E vi dicevo, questa legge prevede appunto che ci sia c'è stata prima una grossa battaglia sulla questione della costituzionalità, e un certo parlamentare, Giovanardi, si è distinto proprio per essere di un oltranzismo notevole. Superata questa cosa, comunque, il meccanismo è un meccanismo di sperimentazione. La legge, pur diluita nel tempo, quindi prima un 20%, poi a regime il 30%, avrà un periodo di sperimentazione di 3 anni. Al termine di questo periodo di sperimentazione, il Parlamento dovrebbe, o dovrà, non so, speriamo, dovrebbe riunirsi e vedere cosa è successo. Vi do alcune cifre, così capite un attimo la portata di... Io questa legge, la Genio Donna l'ha giudicata fin dall'inizio, quando non ne parlava da nessuno, l'abbiamo giudicata così importante che abbiamo fatto molti articoli, abbiamo intervistato sia la Golfo che la Mosca, quando nessuno non ne parlava. Perché? Perché se andrà a regime, se non succederà niente che blocchi questa legge, 4.000 donne prenderanno il posto di 4.000 uomini dentro i consigli di amministrazione. E credo che sia, dal punto di vista concreto, la rivoluzione oggettiva, diciamo, oggettiva più vasta che io sappia, che conosca, dal punto di vista storico, per quanto riguarda il nostro paese. Ecco perché su questa legge ci sono ancora molte, siamo in ansia tutti. È passata anche perché, per esempio, perché c'è stata l'unione di queste due forze, e poi bisogna dare atto anche perché la Fondazione Bellisario è una fondazione molto molto inserita a livello dell'economia, e quindi, diciamo, ha avuto anche l'appoggio di un settore importante del mondo economico e industriale. No? Quindi, però attenzione, diciamo, è un primo passo, ma come al solito i passi possono essere fatti avanti e anche indietro, e anche uno che è stato fatto avanti può essere poi rifatto indietro, quindi bisogna vedere che cosa succede. Io penso che c'è un problema, io vedo un problema urgentissimo nel fatto che nel paese, avete visto, si muovono tante cose, ci sono state tante manifestazioni, soprattutto quelle delle donne. E dal 13 febbraio in avanti le donne ancora stanno lavorando, seppure, diciamo, meno vistosamente. Ma qual è la cosa più importante? Che oggi non è più sufficiente, come dire, protestare, bisogna protestare per qualche cosa, secondo me. Quindi la cosa urgente è veramente riuscire a costruire un progetto in cui la gente si riconosca, un progetto che faccia muovere anche le forze parlamentari, prendiamo il caso, avete visto che un referendum che è stato, ha raccolto 1.200.000 firme è riuscito a smuovere persino anche il signor Berlusconi, no? E perché a un certo punto quando la gente interviene in modo così preciso dicendo questa cosa non la voglio eccetera eccetera, ma se interverrà addirittura dicendo io voglio ottenere alcune cose e le elencherà, se il movimento delle donne secondo me continuerà ad andare avanti a proporre dei contenuti come ha cercato di fare fino adesso, allora forse le cose potrebbero cambiare, perché nel momento in cui per esempio se il movimento, i vari movimenti femminili, perché non ce n'è uno solo, unendosi insieme proponessero appunto un disegno di legge da sottoporre alle forze politiche, diciamo, su cui chiamare le forze politiche a muoversi, per cui ecco, la paternità, il congedo di paternità sia obbligatorio nella stessa misura di quello del congedo di maternità e sia retribuito al 100%, perché fare i figli in questa società sembra che sia una cosa da punire piuttosto che da premiare, forse perché usciamo dall'esperienza del fascismo che dava dei premi perché voleva una nazione tanti fucili, no? Ma addirittura qui succede che una donna che deve partorire a un certo punto ha un certo periodo di assenza dal lavoro, ma non è che viene retribuita per intero, la sua retribuzione è cara. Ora dico, mi pare che sia logico. E poi, soprattutto, se passasse questa idea di un congedo parentale maschile, obbligatorio, della stessa durata di quello femminile, e pagato al 100%, io penso che qui sarebbe un'altra norma che potrebbe incidere veramente nella concezione della famiglia stessa. Perché a quel punto è chiaro, il problema dell'allevamento dei figli, e quindi dell'educazione eccetera, diventa un problema che deve essere cogestito fin dall'inizio sia dai due partner sostanzialmente, e questa sarebbe una novità di grandissima portata. C'è un altro tema secondo me su cui le donne devono intervenire, non possono non dire nulla. Attualmente ci sono circa 4 milioni di persone che non esistono per il mercato, cioè che sono usciti dal mercato del lavoro, perché? E sono persone non anziane, arrivano fino ai 29 anni, quindi da giovani fino ai 29 anni, questo per l'Istat, appunto il calcolo dei giovani è fino ai 29 anni. Bene, ci sono 4 milioni, sono 2 milioni di giovani e 2 milioni e mezzo di donne, non esistono più, se voi andate a vedere nelle statistiche, fra i disoccupati non compaiono più nell'elenco dei disoccupati perché hanno rinunciato dopo aver cercato hanno rinunciato a cercare lavoro. Ora è chiaro che anche questo non possiamo andare avanti come dire, c'è questa sacca di persone inesistenti dal punto di vista del lavoro e noi andiamo avanti tranquillamente come se niente fosse, invece deve diventare e io penso che sono le donne che possono farsi carico di questo, sia perché ci sono 2,5 milioni di donne, ma sia perché affrontare questo problema vuol dire affrontare il problema anche dei giovani. Adesso io non voglio dare soluzioni, però non possiamo aspettare che siano i partiti sono bloccati da varie cose, oltretutto a mio giudizio sono bloccati anche dal fatto che le opposizioni fino ad oggi non hanno presentato un'alternativa che una anche all'interno di una logica parlamentare. È chiaro che questo ha facilitato l'attuale maggioranza, almeno questo è un giudizio che do io personalmente. Quindi io penso che le cose in Italia possono progredire se si muove la gente e se si muovono le donne soprattutto. In questo momento, secondo me, hanno una funzione di guida e di propositiva che può sbloccare veramente la situazione. Per quanto riguarda invece anche qui abbiamo una grossa occasione di cui dobbiamo essere consapevoli, ed è questa del referendum. Ponte il Porcellum è passato un referendum che deve essere ammesso o non ammesso. Con tutta probabilità dicono tutti che verrà ammesso. Bene, se questo referendum verrà ammesso, bisognerà cambiare le regole elettorali, giusto? Quindi stasera ho sentito che persino il signor Berlusconi dice sì, bisogna che diamo ai cittadini la facoltà di scegliere la gente da candidare e da eleggere, finalmente, diciamo. Devo dire che però ecco anche qui, facciamoci un po' un esame di coscienza, su questo benedetto Porcellum vi risulta che ci sia stata una guerra quando andava fatta, una guerra per impedire che passasse una norma che perfino ai tempi della legge Truffa, addirittura è stata chiamata legge Truffa, ma non dava un vantaggio come lo ha dato il Porcellum. No, non c'è stata. E io penso che anche qui c'è stato un retropensiero che non può essere accettato. Vabbè, dice, adesso la dopo loro, magari se andiamo noi al potere, la dopreremo noi, andrà a nostro vantaggio. Invece, secondo me, bisogna ragionare in modo diverso. Le norme devono corrispondere a un criterio di vera democrazia e a un criterio di giustizia, cosa che manca all'attuale legge elettorale. Quindi, abbiamo un'indicazione adesso, l'ha citata l'onorevole Braga adesso, e le norme dal 95, l'atteggiamento della Corte Costituzionale dal 95 ad oggi è molto cambiata. Nel 95 la Corte Costituzionale ha spazzato via delle norme che intervenivano a determinare un risultato elettorale e con questa argomentazione aveva detto no, quelle norme non vanno bene. Ma adesso, diciamo, l'iter, il viaggio anche concettuale dal punto di vista giuridico compiuto dalla Corte Costituzionale è andato molto molto avanti, tanto che accettando anche gli orientamenti della Comunità Europea, tanto che la Corte Costituzionale dice no, se noi offriamo delle nuove possibilità all'elettore e possibilità che contribuiscono a riequilibrare i rapporti fra i generi, non è una cosa che si può fare. Tenete presente, dico che credo che siamo uno dei paesi più stupidi, dal momento che ci concediamo il lusso di tenere metà della nostra popolazione a bagnomaria, come se avessimo una ricchezza tale di intelligenze da poterne farne a meno. Fare meno poi dell'intelligenza femminile, che è diversa da quella maschile, che ha delle capacità di visione circolare dei problemi che i maschi non hanno, lo si dice chiaramente. Allora dico, e qual è l'occasione? L'occasione è data proprio da questa norma inventata dalla regione Campania, per cui diciamo, è stata introdotta la possibilità di una doppia preferenza. Il cittadino campano, quando è andato alle ultime elezioni regionali, ha avuto la possibilità di scegliere. Do una preferenza o ne do due? Se ne dai due, una deve essere di una donna e una deve essere di un uomo, per forza di cose. Risultato, andiamo in termini pratici, risultato, la gente ha approfittato di questa facoltà e le consigliere regionali che erano prima due, in Campania sono diventate 14. Quindi non è stata, è stata semplicemente una possibilità. Il governo naturalmente ha contestato la legittimità costituzionale di questa legge e ha fatto ricorso, ma la Corte Costituzionale ha respinto questo ricorso proprio spiegando no, questo non interviene a determinare un risultato, ma semmai ha concesso all'elettore delle facoltà nuove e delle possibilità nuove che può o accogliere e quindi utilizzare oppure può anche respingere. Quindi ecco, per esempio, la prima cosa da fare, generalizziamo questa norma campana a tutto il territorio nazionale e vediamo cosa succede. Io dico, un Parlamento con più donne secondo me sarà un Parlamento comunque migliore dell'attuale, che è il peggiore che io mi ricordi dal punto di vista storico. Mi metto qua. Sono stata molto interessata ad ascoltare Alessia Mosca, perché non ho letto libro. Sono stata molto interessata dall'introduzione che Ida Paola ci ha fatto. Voglio ritornare un attimo sulla questione dell'atteggiamento delle donne nei confronti delle quote rosa. Io devo dire la verità che su questa cosa sono sempre stata molto combattuta, perché distinto anche per carattere, devo dire che qualcosa che mi sentirei tanto categoria protetta, e quindi qualcosa di non guadagnato è una cosa che a livello proprio per la mia personalità è difficile accettare. D'altra parte sono proprio convinta razionalmente che in una fase di passaggio uno strumento di questo genere è indispensabile per introdurre dei cambiamenti sia nella mentalità maschile sia nella mentalità femminile, anche proprio per le cose che ci dicevano rispetto alla resistenza che anche le donne provano su questo aspetto. Però credo che contemporaneamente ci siano almeno due cose da fare molto importanti. Il tema importanti, forse ancora più difficili, proprio il tema del riuscire a promuovere una società dove le capacità, le competenze, il talento venga riconosciuto. Perché se noi ragioniamo su questo, penso che una società più meritocratica inevitabilmente diventa una società molto più al femminile. I dati ci dicono che le ragazze studiano di più, da tempo hanno assolutamente superato i loro coetanei, studiano di più, studiano, si laureano in tempi più brevi e normalmente con dei risultati molto più brillanti. Ecco, il fatto è che poi questo capitale di conoscenze, di competenze accumulato sul mondo del lavoro fa più fatica ad essere riconosciuto, ad essere apprezzato. E anche in quei settori dove viene comunque riconosciuto la presenza femminile in crescita numericamente, non ha quell'evoluzione di carriera, quella progressione di carriera che viceversa agli uomini viene riservata. Mi piace molto un termine che ho sentito utilizzare da Aldo Bonomi recentemente, che parla del soffitto di cristallo, perché soprattutto in certe categorie appunto c'è una presenza, ma poi però i vertici sono tutti maschili. Devo dire che io di situazioni di questo genere nella mia storia lavorativa ne ho conosciute parecchie, il fatto anche di essere l'unica donna in ambienti totalmente femminili è stato diciamo così un caso frequente, e comunque devi sempre essere un pezzo più avanti rispetto agli altri. E comunque quindi questo cambiamento è importante, riuscire complessivamente a incidere perché ci sia una società nella quale quello che conta sono le capacità, l'impegno, le competenze. Da questo punto di vista, se questo diritto venisse riconosciuto, io credo che non saremmo qui a parlare di dovere rivendicare delle quote rosa. L'altra cosa è importante, credo che proprio sia comunque lavorare su di noi perché pure in mezzo a queste difficoltà, che secondo me le difficoltà pratiche, è vero, sono tantissime nella vita, la cura dei figli, della casa, degli anziani, ma queste cose qui secondo me le donne sono comunque abituate a gestirsi, le donne acrobate come sono chiamate, sono, perché riusciamo a fare mille cose contemporaneamente. Questa capacità di fare mille cose contemporaneamente è anche uno dei motivi perché proprio dal punto di vista anche lavorativo, manageriale, le donne riescono a fare delle cose meno degli uomini. Ecco, c'è probabilmente anche il credere di più in se stesse. Io credo molto al filone del rafforzamento, all'empowerment femminile, e quindi che è la cosa ancora più importante, perché non è solo il fatto di una società maschile, di modelli maschili che non vogliamo fare nostri, ma c'è proprio tutto sommato anche una scarsa fiducia in noi stesse, l'abitudine, probabilmente la crescita di brave bambine che devono essere brave in famiglia e negli ambienti, per cui ci viene più naturale essere a supporto di altri piuttosto che giocarsi in prima persona. E questa secondo me è una cosa importante che nessuno ci regala, dobbiamo fare noi. Tutte le iniziative che vanno nella direzione dell'empowerment al femminile secondo me sono molto importanti. E da questo punto di vista io non so, una cosa di cui non si è parlato questa sera, ma che mi preoccupa molto, è un libro, non so se sia recente o meno, io faccio parte di quella generazione che è cresciuta con dalla parte delle bambine di Elena, della Giannini Belotti. Ricercando per regalare questo libro a mio nipote che aveva appena avuto una bambina e raddrizzarlo bene, ho scoperto che ce n'era un altro che si intitola Ancora dalla parte delle bambine, con una osservazione. E devo dire è agghiacciante perché dipinge l'educazione di genere che interviene sempre più precocemente a formare bambine anziché bambini. E con queste, ci sono una serie di statistiche, se non l'avete letto vi invito a guardarlo, dove la pubblicità fa sì che si abbassi sempre di più l'età in cui vengono indotti il trucco, il vestito, tutte queste leziosaggini che vediamo in giro, si abbassa progressivamente, quindi su bambini di 9 anni questa. Quindi stiamo lavorando per una società di pari opportunità e di legge e poi in realtà nei comportamenti creiamo delle categorie e delle categorie di donne che poi avranno sempre un atteggiamento subalterno. Ecco, quindi contro questa cosa secondo me bisogna trovare il modo di intervenire. Una cosa come, ecco, io do sempre molta importanza anche per questi aspetti alla dimensione educativa, alla scuola di base, visto che appunto si abbassa enormemente l'età in cui le bambine assumono i comportamenti di giovane donna seduttiva anziché giocare a pallone con i loro compagni, che farebbe molto bene. E questo viene quindi la scuola, e intervenire sui servizi sociali, proprio da tanti punti di vista, servizi sociali di qualità per l'infanzia, perché siano educativi e aiutino lo sviluppo complessivo della personalità dei bambini e delle bambine, ovviamente, perché poi c'è sempre il corrispettivo che dall'altra parte devono essere maschietti aggressivi e seduttivi a loro volta attraverso la violenza, quindi che aiuti lo sviluppo di personalità ricche, complete, che siano servizi che poi consentono ai genitori e alle mamme tranquillamente di andare a lavorare e di non impazzire nell'acrobazia di saltare fra una cosa all'altra. Ecco, io credo che questo sia veramente la sfida più grande che abbiamo. E anche rispetto alle proposte di legge che venivano citate del defiscalizzare, non lo so, non le conosco bene, però sinceramente penso che in una situazione poi di ristrettezza di risorse economiche in ballo, più che pensare a ridurre o fare sconti che poi sappiamo prima o poi ci fanno saltare completamente se arrivano al punto di pensare di togliere il ticket mensa dei dipendenti pubblici, la cosa da fare è usare quelle poche risorse che ci sono per far funzionare bene i servizi, per farli funzionare in modo tale che siano compatibili con il lavoro, in modo che la gente possa lavorare. Al limite, dato che bisogna essere realisti, anche senza, sapendo che non potranno essere gratuiti, sapendo che verrà richiesto un contributo, non voglio essere fraintesa, è chiaro che la mia posizione sarebbe per avere gratuità o quasi della maggior parte possibile dei servizi. Però penso anche che laddove questo non fosse necessario, la cosa che è comunque utile è fare in modo che i servizi siano di qualità e probabilmente se vengono organizzati e gestiti in forma collettiva finiscono con l'essere sempre meno costosi della babysitter personale che uno si deve prendere. E da questo punto di vista una cosa che mi ha colpito molto e mi piace citare è un'iniziativa di cui ho letto recentemente, che comunque alcune forze di Reggio Emilia stanno sviluppando, perché il settore degli asili nido, voi sapete che a Reggio Emilia sono stati, cioè, al top, il punto di eccellenza a livello mondiale, con risultati eccellenti, e proprio di fronte a questi tagli continui si sono trovati in una situazione in cui purtroppo anche da loro sono scesi sotto la soglia di sopravvivenza, e si stanno inventando, la notizia bella è che si stanno inventando una soluzione particolare, cioè creano una fondazione, fanno appello a delle contribuzioni di privati che possono essere i lasciti, l'eredità che adesso anche con tante persone anziane senza figli che rendono disponibile al termine della loro vita lasciti, ma oppure anche contributi di coloro che sono cresciuti e sono diventati delle persone ricche interiormente, quindi hanno avuto uno sviluppo professionale interessante, che riconoscenti di quello che la struttura dell'asilo a loro fornito, contribuiscono volontariamente perché questa realizzazione possa andare avanti. Io l'ho trovato un esempio bellissimo, perché vuol dire che laddove c'è una capacità di gestione collettiva e di qualità che coinvolge le persone, e quindi la cui utilità poi viene valutata direttamente dalla collettività, poi appunto il modo per far proseguire delle esperienze positive c'è. Ecco, quindi se devo dire i miei messaggi sono proprio questi: donne che puntino molto di più, cioè continuiamo in questo lavoro di uscire fuori, di scontrarci, della fatica delle nostre posizioni allo scoperto, e dall'altra parte una società che sia a misura delle donne, che poi vuol dire a misura di tutti. Quasi, due figli intorno all'adolescenza, una ragazza di 19 e una di 17. E quello che dico deriva un po' da quello che ho sentito, dall'osservazione dello stato dei fatti del mondo e anche dei giovani che ho avuto la possibilità di frequentare avendo figli di questa età. Mia figlia peraltro ha appena finito il liceo classico, mio figlio sta facendo il liceo scientifico, e quindi anche di giovani che diciamo a livello culturale comunque hanno avuto la possibilità di frequentare una scuola che avrebbe potuto dare loro l'opportunità di affrontare e di discutere certi argomenti. Cosa che in realtà è molto povera questa scuola in questo senso, perché in realtà io mi sono accorta che pur vivendo in una famiglia e avendo un marito che partecipa, mi sono accorta che certe rigidità e quindi certi argomenti che noi come donne abbiamo portato avanti, io forse ho vissuto un po' al traino perché sono nata nel 62, quindi determinate cose, e il fatto che comunque abbassare il livello di guardia è sempre molto pericoloso, e quindi determinate convinzioni rispetto al valore di una donna, del lavoro che fa, non sono mai abbastanza acquisite, e che il doverlo affermare è importante. Però mi sembra molto interessante, e questo l'ho letto, l'ho sentito, la proposta del costringere, scusate, in quanto legge, gli uomini a vivere un'esperienza da donne, cioè il fatto di costringerli a fare questo tipo di esperienza, perché in fondo mi sembra che in tutti questi anni noi in quanto donne abbiamo cercato di dimostrare il nostro valore, il valore del lavoro che facciamo, che cosa significa condividere, gestire, dividerci tra 50.000 ruoli. Però in realtà io sono anche una riabilitatrice, scusate, e ho esperienza quindi di persone che in quanto grandi traumi cerebrali hanno perso la competenza di come sia il fatto di costringere o comunque di riportare queste persone nella prassi di determinate cose ad ottenere, a permettere di ottenere molto più che non a stare a raccontare, no? E quindi che è l'esperienza proprio, il fatto di vivere determinate cose. E quindi come effettivamente l'esperienza dell'uomo che deve fare, deve essere padre, ma misurarsi proprio fisicamente, in modo diretto, con la gestione di un figlio, della casa, dell'organizzare la spesa, perché la moglie contemporaneamente fa quello che lui ha fatto prima quando lei era a casa. In realtà questi giovani, io mi sono accorta, una figlia che ha un ragazzino, ogni tanto di richiamare mia figlia dicendo: ma perché lui ti dice e usa questo tono con te? Ho una figlia di 19 anni, dico: caspita, devo essere io a... Eppure succede, piuttosto che un figlio di 17, ho avuto la fortuna di lavorare per metà tempo per quello che faccio, facendo 50.000 altre cose dopo, perché non ho una famiglia che mi ha aiutato nella crescita di questi figli, ho dei genitori lontani. E mio figlio che dice: ma in fondo tu lavori solo mezza giornata. Cioè, allora io mi dico, forse mio figlio dovrà davvero sperimentare che cosa significa per capirlo, quando in realtà non vive in famiglia una situazione di un padre che sottovaluta il mio ruolo. Eppure è una questione proprio, secondo me, come dire, di DNA, non so come definirlo, di genere, come vogliamo chiamarlo. L'altra cosa che volevo dire è questa. Proprio in quanto riabilitatrice mi sono accorta che l'idea di partire con un progetto per un recupero, descrivendo un obiettivo, è importante, però in realtà con i miei pazienti io devo lavorare sempre a piccoli obiettivi, cioè cercando di stabilire delle piccole tappe. Allora, io quello che chiedo alle persone, le donne, in quanto donna io questa lo trovo una cosa importante, perché è vero che parcellizzare ti aiuta a camminare avanti senza fatica o misurando questo discorso della fatica. Allora, le persone che ci rappresentano in Parlamento, concretizzare anche con piccole cose, ma portare avanti qualcosa anche di piccolo, perché altrimenti il rischio è che davvero ci sia sempre da una parte il desiderio di qualcosa d'ampio respiro, ma poi alla fine concretamente che non si percepisca, mentre in questo momento forse abbiamo bisogno anche di questa possibilità di percepire qualcosa che sta cambiando. Ho finito. Grazie. Chiara, non dici niente. No, io volevo dire due considerazioni più che altro relative all'ambito del lavoro, magari qualche cosa sulla conciliazione. Però mi attacco a quanto ha detto la signora un attimo fa. Io chiamo Chiara anch'io. Chiara, ecco. Siamo in maggioranza. Siamo sì, tra Chiara. Allora, il discorso del fatto, secondo me, è molto un discorso culturale. Cioè, io una volta ho avuto un impatto andando al TOIS. Andando al TOIS, che è un negozio di giocattoli, non per fare la pubblicità, ma tu apri la porta e vedi una distinzione di genere che ti colpisce, non ti può sfuggire, perché da una parte ci sono i giochi per i bambini e hanno delle caratteristiche, e dall'altra parte, tutta bella rosa, ci sono i giochi per le bambine dove c'è già il ferro da stiro, già il livello pronto in pole position per essere regalato alla bambina che dovrà crescere e andare a stirare le camicie. Nel libro di cui si sarebbe dovuto parlare stasera, si fa un esempio, mi sembra dal capitolo sui media, fa un esempio di una pubblicità che forse abbiamo visto tutti, che è quella dello Swiffer, quando lui apre la porta e vede questo enorme granello di polvere e si gira e dice alla moglie: è per te. L'esempio stava nel fatto che una delle due autrici, non mi ricordo sinceramente quale, diceva: ma in un altro paese questa pubblicità non sarebbe nemmeno stata fatta, perché non avrebbe avuto nemmeno l'impatto, non avrebbe neanche fatto sorridere, sarebbe stata controproducente, perché avrebbe indotto il pubblico femminile a ritenerla offensiva. Invece da noi uno la guarda e dice: ah, guarda, è vero, che si fa sulla. Quindi se nel complesso noi abbiamo una società che ha dei modelli culturali, che ha dei modelli culturali anche al top, quindi se tu vedi in un convention di economia e tu guardi la fotografia e ci vedi tutti uomini, magari una donnetta sparuta da qualche parte, se tu vedi un gruppo di politici che siglano un accordo, li vedi tutti uomini. In magazzini immagino un qualcosa che lo consideri, finisci col considerarlo un dato di fatto. E quindi fai fatica anche, questa è la lotta per questo tipo di leggi anche da portare avanti. Immagino che sia una cosa difficile, perché non è solo per il fatto che le donne sono poche, che le donne fanno fatica anche a fare lobby, ma fanno proprio fatica perché si scontrano con un muro che dall'altra parte è abituato a fare lobby. Il problema delle quote, io l'avevo studiato un po' di anni fa, secondo me personalmente l'unico problema delle quote è che per una donna che va via da un posto, cioè che per una donna che prende un posto necessariamente ci sarà un uomo che dovrà lasciarglielo. Quello è l'unico problema delle quote che esiste, perché il problema della meritocrazia in realtà non ha una grande ragione d'essere, perché altrimenti vorrebbe dire che tutti i posti di responsabilità che ci sono adesso sono occupati dal top che ci potrebbe essere, e questo non è vero. Poi c'è una docente di economia dell'Università di Pavia che fa una presentazione bellissima, che si chiama Luisa Rosti, e fa una presentazione bellissima dove inizia partendo, lei la spiega da un punto di vista scientifico, io ve la riassumo dal riassunto del riassunto, vi spiega che praticamente se si parte dall'assunto che i talenti e l'intelligenza sono distribuiti in modo casuale nella società, alla fine con tutto un discorso che mescola principi economici e principi di genere, arriva a dimostrarti che in questa piramide, che quando sali hai le palline azzurre, che prima le palline azzurre e le palline rosa sono quasi uguali, poi salendo arrivano solo le palline azzurre, e inevitabilmente vuol dire che tutte le palline rosa che sarebbero potute essere lì sono state buttate via, e non è detto che la pallina azzurra che è arrivata sia davvero il top che poteva essere lì in quel posto. Il problema, l'ultima cosa che mi viene in mente, visto che è stato citato come problema, è il discorso della conciliazione. La conciliazione che vuol dire il lavoro di cura, che vuol dire servizi. E qui dobbiamo anche dirci delle cose, perché se tu metti dei principi, li metti nelle leggi e poi dopo in altre leggi togli i fondi e metti nelle condizioni i servizi locali di essere tagliati, tu non puoi dire un principio da una parte e poi a cascata fare una cosa che è completamente l'opposto. Secondo me manca una visione d'insieme. Perché adesso il livello locale è lasciato, è abbandonato a se stesso. Questi servizi che c'erano magari già prima già erano pochi, perché noi già tutti diciamo i servizi per l'infanzia, l'Ido, lei ha citato Reggio Emilia che è il top dei top, però noi non dimentichiamoci che in Italia i bambini che vanno al nido che vanno all'asilo sono una percentuale miserrima rispetto a quello che dovrebbe essere, credo un obiettivo dovrebbe essere il 30 o il 35%, noi siamo 36%. Ecco, c'ero quasi arrivata. Noi siamo molto più bassi. C'era stato, tra l'altro, approfitto del fatto che c'è l'onorevole Braga, magari ci dice qualche cosa, c'era stato un piano della ministra Carfagna per favorire le tagesmutter, quindi queste... pronunciato malissimo, io non so il tedesco, ecco, le tagesmutte, che sono praticamente delle mamme di giorno, no? Nell'ottica di incentivare questi servizi di prossimità, quindi non l'asilo strutturato, ma magari la mamma che ha già due bambini che si occupa anche dei bambini, di altri 4-5 bambini. È un sistema molto utilizzato nelle zone di Bolzano, ecco, ha avuto molto molto successo. Qui dopo non si è più saputo, neanche io non, infatti, non si è più saputo che fine, non si è più saputo che fine abbia fatto questo tipo di cosa, che avrebbe potuto avere un buon, anche una buona soluzione. La regione Lombardia sta facendo una cosa, io non è che voglio fare pubblicità alla regione, però è l'unica cosa che sta facendo, secondo me mi sembra anche giusto dirla. La regione Lombardia, sulla scia dell'accordo, sempre di un'intesa della Carfagna, che aveva messo a disposizione dei fondi sulla conciliazione, poi gestiti a cascata dalle regioni, sta facendo degli accordi territoriali sulla conciliazione, che vuol dire, fino adesso sono state tutte parole, tutte pezzi di carta, però la filosofia dovrebbe essere quella: mettiamo in rete i soggetti del territorio a livello locale e in modo che possano creare dei servizi nell'ottica di fare servizi a costi sempre più ridotti, che costino sempre meno al pubblico, mettendo in rete anche il privato sociale, le organizzazioni di volontariato. È un'ottica molto familiare, perché chiaramente la regione Lombardia ha un'idea che non è l'idea tanto di favorire le donne, ma è comunque centrata sulla famiglia, ma va bene lo stesso. Bisogna vedere poi dall'atto pratico in che cosa si tradurranno. Al momento è stato siglato l'accordo anche sul territorio comasco, perché erano obbligatori, insomma, questi accordi sulla conciliazione. Vedremo poi il piano operativo che cosa dovrebbe portare come... Con chi sono siglati questi accordi? L'accordo praticamente, allora, viene gestito a livello territoriale, allora, c'è la regione, che è la DG Famiglia della regione, poi c'è l'ASL, poi c'è il Pirellino, quindi la cosa della regione qua, la provincia, il comune, i piani di zona degli ambiti territoriali e la consigliera di parità, questi come soggetti primi firmatari. Poi nel gruppo di adesione ce ne sono un sacco, c'è la Camera di forse anche il già il primatario, cioè la Camera di Commercio, poi ci possono essere degli altri comuni, poi ci possono essere realtà del privato sociale. L'idea è quella di fare degli accordi abbastanza i più ampi possibili, ecco, dove ci sono tutti questi principi della conciliazione. Però posso dire in merito a questa cosa, sociale, perché lavorando in ambito sanitario, anche in ambito sociale, ci scontriamo con queste cose, che tutto, cioè che questo allargare ad altri, a privati, è la gestione dei servizi, senza poi una possibilità di controllare la qualità di questi servizi che vengono offerti. Per esempio Como, i miei figli sono andati in asilo nido per scelta, e Como aveva come asili nido veramente di grande qualità. Io ho partecipato alla lotta a un certo punto, anche quando i miei figli ormai non erano più in età da nido, raccogliendo firme, perché progressivamente c'era stata una riduzione, una grossa diminuzione di posti all'interno di queste strutture pubbliche. Quando poi sono sorte tutte queste realtà, da Manigioc alla città degli Orsi, che voglio dire, allora, io quando i miei figli erano in asilo nido in via Zezio, quello c'è, cioè, meraviglioso, anche quello della via Italia Libera, io sapevo quali erano i progetti, ho conosciuto le insegnanti, le direttrici, abbiamo discusso di questa cosa, ho sempre partecipato. Io francamente di queste strutture mi stupisco, di questa ripresa enorme di queste scuole private, para-religiose, dove effettivamente anche rispetto al discorso della figura femminile, adesso le Orsoline prima stavano per chiudere, adesso sono diventate una delle scuole più quotate di Como, così come le Santa Chiara, le Canossiane di Turno, insomma. Cioè, porca mia, io, così come anche tutte queste associazioni parareligiose, para di qua, che si occupano anche della disabilità delle persone, perché guardate che qui c'è un grande anche business, perché questa gente effettivamente, le cooperative, cioè attenzione anche a tutta questa rete, perché poi tutte queste strutture che riescono ad ottenere anche delle sorte di convenzioni, ma poi se non c'è la possibilità di andare a verificare come questi soldi che ricevono vengono davvero investiti, è un disastro, nel senso che poi a posteriori scopri che c'è la persona incompetente che si occupa dei disabili o dei bambini con difficoltà senza averne le competenze, cioè non dobbiamo neanche, ecco questo, scusate ma non sono sentita di dirlo perché a volte non ci accorgiamo di questo tipo di interessi che circolano e in Lombardia in modo incredibile, anche perché l'impronta sappiamo è CL, Compagnia delle Opere, sappiamo chi è il presidente, no, della Regione Lombardia, sappiamo quali sono, poi la realtà di Como non ne parliamo in questo senso, però... Sì, no, è sicuramente vero, tra l'altro la Regione Lombardia è stata, credo forse l'unica in tutta Italia che ha tentato di fare questa equiparazione pubblico-privato anche con i servizi al lavoro, quindi i centri per l'impiego e tutte le strutture private ha creato questa cosa qui, quindi c'è molto questa cosa. D'altra parte c'è anche un pubblico che non è più in grado di sostenere i costi di completamente i costi di servizi. Dei servizi anche cioè, ma guardiamo anche il comune di Como, avevo letto un articolo dove diceva che il pulmino per andare a Capiago, insomma, non si poteva più fare il pulmino a Candago, i bambini alla mensa, se i genitori non pagano, per carità, i bambini non mangiano più neanche. Anche lì, questa cosa qui, c'è stato un papà, io non ho figli, per cui non è che l'ho seguita leggendo il giornale. Allora, questo povero papà che ha manifestato davanti alla casa del sindaco, solo, da solo, come un poveraccio messo lì così. Io leggendo in internet, questo tipo di soluzione di tagliare ai genitori morosi non è stata fatta solo da Como, hanno cercato di farla anche in altri comuni, dove c'è stata una sollevazione. Qui non si è sollevata. A Como, insomma, ma sì, poi però troveremo una soluzione, questo ha manifestato, sono usciti 3 articoli sul giornale e dopodiché, insomma, la cosa, io non ho più saputo niente, non so più neanche come è andata a finire. Quindi anche l'opinione pubblica forse bisognerebbe anche un po' sollecitarla su certi argomenti, perché altrimenti poi c'è la moria totale. E l'ultima cosa sulla conciliazione, sempre sul discorso degli asili, sul discorso delle strutture, c'è anche la possibilità di far intervenire le aziende, perché dall'altra parte c'è anche il discorso della valorizzazione, cioè questa conciliazione c'ha un aspetto sui servizi e tutto quanto, ma c'ha un aspetto sull'organizzazione del lavoro che bisogna valorizzare e che possibilmente bisogna potenziare. Anche qui c'è alcune aziende che hanno creato anche gli asili. Certo, per i dipendenti e poi dopo questi asili fatti per i dipendenti possono essere allargati con delle aziende piccole si sono consociate. Però le aziende piccole possono aggregarsi, perlomeno questa sarebbe l'ottica, però tu l'azienda la devi anche, diciamo, un po' educare a questo tipo di cose. Anche qui c'è un bel pezzo in questo libro dove parla di una testimonianza di un'imprenditrice donna in un settore meccanico, in un settore maschile, che lei più che altro per interesse personale e anche per interesse aziendale, perché lei ha cercato di introdurre delle forme di sostegno a queste donne, non una grande percentuale, che andavano in maternità, partendo dall'ottica che la maternità non deve essere questo momento di estraneità totale da quello che è la vita aziendale, ma che può esserci un accompagnamento, può esserci una vicinanza, può esserci un percorso che ti accompagna partendo dal momento in cui tu dici all'azienda che aspetti un bambino al momento in cui rientrerai. E queste sono, diciamo, anche le soluzioni più innovative fatte, naturalmente parliamo di multinazionali, adesso non mi ricordo se è l'IBM o chi, che comunque uno dei percorsi più innovativi è proprio quello di fare tipo o tutoring o mentoring alle... forse anche l'IKEA, adesso non sì, probabilmente sì, anche l'IKEA, però proprio dall'inizio andando avanti, per non far sentire né la mamma completamente estranea e anche per responsabilizzare la donna che poi dopo si sente di rientrare, perché altrimenti la situazione classica delle aziende italiane, io posso dirlo, lavoro con l'ufficio della consigliera di parità che si occupa proprio di discriminazioni delle donne nel mercato del lavoro, è torni dalla maternità, se ti va bene trovi la tua scrivania messa nell'angolino, se non ti va bene non trovi più neanche la scrivania perché aspettano un giorno, il bambino deve compiere un giorno per poterti licenziare e ti licenziano. E questo è un altro, e questo è un altro problema, perché noi consideriamo che in Italia una donna su tre esce dal mercato del lavoro dopo la nascita del primo figlio. Un dato eclatante, perché questa che esce molte volte finisce nella quota di quelli inattivi, quindi che hanno smesso anche poi di cercare di rientrare, perché quando ti decidi a rientrare fai talmente fatica che dopo un po' di tempo dici allora non rientro più. Siccome le statistiche sulla disoccupazione prendono in considerazione, per considerarti disoccupato devi aver fatto almeno un'azione di ricerca del lavoro nella settimana antecedente a quella della rilevazione, se tu non hai fatto nemmeno quella, basta, ti sei cancellato dalle statistiche praticamente, e quelli che sono cancellati dalle statistiche da noi sono proprio donne. Il lavoro lungo, sì. Resta da dire un po' una cosa, scusa. Perché noi questa sera siamo qua in pochi per le ragioni. Però io ricordo un tempo che quando c'erano le proposte delle donne, le battaglie delle donne, eccetera, tutti quanti sapevamo di cosa si parlava, ci sentivamo anche forti come donne. Devo dire che né l'inferno dei partiti, né neanche quelli della sinistra, né a livello generale così si hanno informazioni. Si hanno informazioni su queste cose. Questo che è stato detto stasera, particolarmente la parte sulla valorizzazione della differenza che la donna può portare in un ambito politico, eccetera, come lo sta portando nella vita privata, nella vita familiare. Non si sa, finito qui, le donne che vogliamo che lo sappiano, devono essere tanto, che si devono sentire anche forti e sicure, perché è vero che molte donne, almeno parlandone, che rifiutano questo fatto delle politiche specifiche, della parità, di queste di quelle, perché si sentono già pari, specialmente le generazioni diverse dalla mia. Ecco. Allora, come far sì che tutto quello che è stato detto qui venga divulgato, venga conosciuto, che faccia sentire che c'è, che si parla di noi, che c'è qualcosa per noi? Bisogna che almeno Chiara, il partito, il PD, se ne faccia anche carico. Ecco, perché, come devo dire, è quello, perché uno dice perché quell'uomo è andato là, si è lamentato e poi nessuno l'ha seguito. Perché quando c'è una sfiducia generale, che in fondo sei solo, che nella società sia come cittadino e come un sacco di cose, non ti senti appoggiato, non ti senti di far parte di un gruppo, di questa popolazione, eccetera. Chiaramente non si va avanti nessuno, tutto resta lì. C'è solo quel poveretto che è sembrato un poveretto, che stava male, voleva dire come stava male, come era ingiusto quello che si faceva, ma poi non si muove nessuno, perché bisogna anche sentirsi forti, appoggiati, che le idee che sono nostre, che ci riguardano, devono sentire che ci riguardano. Allora bisogna trovare una maniera di divulgare. Quindi più comunicazione. Più comunicazione, tutti i mezzi, tutti i modi, qualsiasi cosa. sia nei circoli di partiti, sia fare più incontri su questo, a livello di quartiere, perché sai, poi quando vuoi sapere qualcosa devi venire a comodo in biblioteca o... No, anche più centrato, anche più mirato. È un lavoro che la politica deve fare. Ecco, secondo me qualcosa di... Ma non è vero che mancano i meri, ma non può venire su tanto, perché non la voglio, stavamo insieme. Adesso è proprio un altro. Smentiamo il fatto che diciamo, le donne si lamentano delle riunioni a tarda ora, esattamente il contrario, qui sono le donne che stanno tirando in lungo gli uomini che decidono che vogliono andare a casa. Vi ringrazio della serata perché è stata comunque positiva. Speriamo di trovarci ancora, probabilmente con le relatrici che questa sera... Facci sapere per forza. Con una...